Social net fucking, social net fucking, social net fucking, social net fucking, social net fucking, social net fucking, social net fucking, social net fucking, social net fucking, social net fucking. Preso come un gioco e adesso sono qui su questo social network. Ho ritrovato i miei amici, parenti e professori, ma non prendiamoci in giro, sono qui per un motivo. È pieno di pischelle che ci hanno fatto i costumi, non riesco a farne più a meno e adesso sono dentro al social network. Social net fucking, social net fucking, social net fucking. Rispetto a pochi anni fa, adesso è molto meglio. Guardo le foto e le scelgo, poi le contatto in chat. Controllo se è fidanzata e che interessi ha. Scelgo la tattica giusta, ma è che comodità. A tutte le ore connesso per rimediare l'amplesso, ed è una vera cazzata andare al segno grazie al social net fucking, social net fucking, social net fucking, social. Che coincidenza, io sono di Crotone, incontriamoci. Come artistica la foto di te che fai faccine buffe in reggiseno al bagno. Che dolce che sei. Ho sempre amato le ragazze dolci. È proprio quello che cerco, giuro. Metto un like, share un link, posto un tweet, di sicuro tu mi noterai. Fai uno smile, taggami. Con la parentesi chiusa non hai più nessuna scusa. Social net fucking, social net fucking, social net fucking, social net fucking, social net fucking, social net fucking. Fucking social net fucking, social net fucking, social net fucking, social net fucking, social net fucking, social net fucking, social net fucking, social net fucking.